Capitolo 29. Il quadro comandi della radio si solleva, liberato dalle viti e rimosso da Danny con la cura di un chirurgo. Le viscere dell'apparecchio si offrono alla vista e la ragazza le fruga con la punta delle dita. Estrae un telaio di legno, fitto di cilindretti e morsettiere, tenuti assieme da un intrico di fili, componenti elettronici dei quali Kotick saprebbe citare a malapena il nome: diodi, condensatori, resistenze, relè. Danny verifica la tenuta dei cablaggi, cavo per cavo, bullone per bullone. Con l'unghia gratta le scorie di una saldatura, soffia sui residui per spazzarli via, afferra il minuscolo dado di un contatto e lo avvita stretto senza bisogno di attrezzi, grazie alle dita sottili. Poi la sua attenzione si concentra su un punto, lo strofina con il pollice come per lucidarlo. «Trovato il guasto?» domanda a Kotick. Danny si limita ad annuire, troppo indaffarata per aprire bocca. Quindi appoggia il garbuglio sul tavolo e indica il punto che ha tanto studiato. «Vedi?» domanda soltanto. Ma il ragazzo non vede granché, a parte una goccia di metallo rappreso. «Avrei bisogno dello strumento adatto», si lamenta Danny, «ma non so come si chiama». Kotick trova strano che una persona abbia tante conoscenze e così poche parole per dirle. Viene davvero da pensare che la sua lingua madre sia un idioma del Caucaso o di un altro pianeta. Quando suo padre gli ha descritto la patologia di Danny, pseudologia fantastica l'ha definita, il racconto lo ha commosso e incuriosito. Quella coetanea è smarrita nel mondo, ma al tempo stesso ha le idee chiare su molti aspetti della realtà che li circonda. «A cosa ti serve?» le chiede. «Devo sciogliere la saldatura e rifarla da capo. Magari mi basterebbero un cacciavite riscaldato sul fuoco e un pezzetto del metallo adatto. Tu che ne dici?» Kotick ci pensa su, ma non gli viene in mente niente. Gli secca non avere alcuna pratica di macchine e attrezzi. Suo padre non ha fatto che parlargli di cultura proletaria, di osservare il mondo dal punto di vista del lavoro, eppure non gli ha mai messo un martello in mano. «Tutto funziona nello stesso modo», gli ha ripetuto mille volte. «Se studi la tecnologia, puoi orientarti in qualunque materia». Già, come se attraversare un ghiacciaio o un deserto fosse solo questione di avere la mappa giusta. Come se la teoria potesse sostituire l'esperienza diretta. Ma Kotick lo conosce, uno che ha esperienza di saldature e metalli. «Ti porto da un amico che ha quello che ti serve». La ciminiera domina le case basse e le baracche di legno alla periferia della città, innalzando spirali di fumo grigio nel cielo ormai buio. I due ragazzi attraversano un cortile fangoso disseminato di bancali e bobine di legno. Davanti al portone di ferro di un grande edificio di mattoni scuri, un capannello di uomini è impegnato a fumare e discutere. Kotick si ferma e li osserva a distanza. Alza il braccio e si dirige verso un tizio coi baffi neri, avvolto in un cappotto pesante col collo da astrakhan. «Aleksandr Aleksandrovich!» esclama quello con un abbraccio. «Che ci fai da queste parti?» «Ho un favore da chiederti», esordisce il ragazzo. L'uomo è di qualche anno più anziano di lui. Porta la sigaretta alle labbra e controlla l'orologio da polso. «Se posso, ben volentieri, ma tra 16 minuti devo riattaccare». Kotick affonda le mani in tasca e affretta le spiegazioni. «Stiamo aggiustando una vecchia radio», dice. «A proposito, lei è Danny, un'amica che viene da lontano, e lui è Rodion Andreevich», conclude l'altro. «E così voi due riparate insieme una radio», strizza l'occhio destro e ammicca. «Fate attenzione a non prendere la scossa. In cosa posso esservi utile?» Kotick arrossisce, farfuglia qualcosa mentre Danny mostra l'apparecchio che ha portato sotto braccio. «Devo rifare queste», dice, indicando le saldature. L'operaio si liscia i baffi e assume un'aria da esperto. «Giusto», si complimenta. «Quando lo stagno fa le palline, la saldatura non tiene. Con uno stagnatore le aggiustate in 2 minuti. «E tu ce l'hai?» lo incalza la ragazza. Quello punta il pollice sopra la spalla destra, a indicare il fabbricato dietro di lui. «A gas, ultimo modello. Ma se ve ne presto uno, finisco nei guai». La cicca di sigaretta atterra su una chiazza d'erba incolta. L'uomo inclina il polso per controllare l'orologio. 10 minuti», annuncia rivolto ai compagni. «Se ci fai entrare, la sistemiamo in un attimo», azzarda Kotick. «E poi Danny non ha mai visto una fabbrica come questa. Le piacerebbe tanto». Rodion accoglie la richiesta con una risata che gli scuote il petto. È proprio vero che la rivoluzione ci ha cambiato la vita, dice, trattenendo gli sghignazzi. Un tempo con la fidanzata si andava a vedere il tramonto, adesso la si porta a visitare una fabbrica. Kotick arrossisce ancora, ma l'uomo non smette di canzonarlo. La tua ragazza ti sarà grata, Sasha, dice, con una pacca sulla schiena. Questa non è una fabbrica qualsiasi, è uno stabilimento modello. Vengono a studiarla i pezzi grossi, anche dall'estero, e spesso scelgono me come guida. Avanti, sbrighiamoci. L'operaio si volta e infila una porticina ritagliata nel pannello metallico più grande. I due ragazzi lo seguono. L'interno è illuminato da lampade ad arco che accendono i veli di una nebbia sottile. La teoria di finestre sulle due pareti lascia intravedere il cielo serotino. C'è odore di potassa e ferro smerigliato. Danny sente gli occhi bruciare, ma si sforza di tenerli aperti. L'intero spazio è occupato da un grande anello, come un gigantesco tavolo da lavoro al quale manchi la parte centrale. La superficie scorre, simile a un torrente, e trasporta pezzi di varie fogge. Gli operai sono in piedi, schierati su entrambi i lati del nastro. I pezzi girano tra le postazioni, si arrestano precisi davanti a chi le occupa. Ognuno esegue il suo lavoro sul manufatto e appena finisce tira una leva. Quando tutti quanti hanno tirato la loro, il nastro riparte e gli oggetti raggiungono la tappa successiva. «Tu che lavoro fai?» domanda Danny, la voce a sormontare il clangore degli attrezzi. «Prendo i tempi», risponde Rodion, e di fronte all'espressione della ragazza aggiunge «Studio il modo più veloce per eseguire un lavoro e controllo che nessuno rallenti il ritmo». Danny aggrotta la fronte e indica gli uomini intorno all'anello. «Fanno una gara?» L'uomo si gratta la nuca. La domanda pare idiota, ma l'idea di una gara non è così balzana. Potrebbe anche proporla. «È per aumentare la produttività», spiega. «Il nostro motto dice 2 più 2 più un'organizzazione efficiente uguale 5». La guida avanza verso un banco di legno. Apparecchia di fronte a Danny lo stagnatore, infilato nel suo trespolo, insieme a una scatoletta di alluminio bassa e rotonda. La ragazza svita il coperchio e rovescia sul piano un ricciolo di stagno laminato. Rodion afferra l'attrezzo per il manico, apre il rubinetto del gas e accende il fornello con un cerino. «Questo si scalda in un attimo», dice compiaciuto. «Tra qualche mese dovrebbero arrivarci quegli elettrici, ancora più veloci». Danny appoggia sul banco la scatola della radio. Ripensa al motto 2 più 2 uguale 5. «Se corri veloce», dice, mentre estrae il telaio, «ti fermi prima di uno che va più lento, quindi fai meno strada». Rodion si volta verso Kotick. «Strana ragazza ti sei trovato». Poi capisce di cosa sta parlando. «Certo, ti fermi prima perché ti stanchi prima», le dice. «Per questo la rivoluzione ha ridotto l'orario di lavoro a 8 ore. Presto, grazie alle nuove macchine, lo ridurremo ancora di più. Sgobbiamo meno, a turni, ma con più intensità, più produttività». «Aumentare la produttività è un bene per tutti», conclude. «Chi non vorrebbe più ricchezza con meno fatica?» La ragazza osserva gli operai che lavorano senza nemmeno sfiorarsi, ognuno intento al proprio compito, con gesti ripetitivi, sempre identici e un grande orologio, in alto, a scandire il tempo. «Io a fare sempre la stessa cosa mi annoio», dice, «e quando mi annoio, lavoro peggio. Il cervello si assopisce, le mani rallentano. Da dove vengo io, i lavoratori non fanno una cosa soltanto, cambiano spesso, imparano diversi mestieri». «Dalle tue parti avete un sacco di tempo da perdere, allora», ridacchia Rodion, e Kotick gli chiede a condiscendenza con uno sguardo supplice. Senza aggiungere altro, Rodion porge lo stagnatore rovente, ma con un gesto incerto. Lo saprà davvero usare questa ragazzina? Danny impugna l'attrezzo e accosta la punta alla saldatura da correggere. Un pennacchio di fumo acre si alza dai fili. Rodion e Kotick ammirano i gesti sicuri con cui la ragazza elimina lo stagno in eccesso. Poi l'operaio pare illuminarsi, come se avesse trovato la soluzione di un enigma. «Ecco, se lavori per te stessa, dice, puoi rallentare quanto vuoi. La catena di montaggio, invece, ti impone di stare al ritmo con la tua squadra. È un modo di lavorare collettivista». Danny alza la testa dai cablaggi, col saldatore stretto nella destra. Cattura una stringa di stagno mentre lancia un'occhiata agli operai, impegnati dai pezzi e dalle leve. «Loro lavorano insieme? A me sembra che ognuno faccia per sé». «Al contrario, sono come gli arti di uno stesso corpo. Se uno rallenta, rallentano tutti, ma grazie al cronometro posso controllare che non succeda». «E se invece rallenti tu?» domanda Danny. «C'è qualcuno che cronometra te?» E poi un altro che cronometra lui e così all'infinito? Kotick si sforza di ridere, anche se ormai conosce Danny e sa che quella non è una battuta di spirito. Rodion lo imita, convinto che la ragazza deve essere un po' suonata, però divertente. Danny accosta i pezzi che deve saldare, appoggia lo stilo nel punto giusto e avvicina la lamina di stagno, perché coli e si distenda senza deformazioni. Rodion è nervoso, come se la perizia della ragazza lo costringesse a prendere sul serio anche le sue argomentazioni. E poi ci sono compagni che hanno già mosso critiche del genere. Troppi controlli, troppa fatica. Si produce di più, ma si guadagna uguale. È questa la rivoluzione? Oggi, in Unione Sovietica, riprende in tono paternalistico, i padroni delle fabbriche esistono ancora. Per questo le industrie statali devono puntare alla massima produttività, per fare meglio di quelle private e arrivare a soppiantarle. E poi bisogna reggere la concorrenza dei paesi capitalisti che vogliono strozzare la nostra economia. Qui combattiamo una battaglia del lavoro. Appare molto soddisfatto delle proprie parole. Danny non risponde, ha l'aria stanca. Controlla che la saldatura tenga, che lo stagno sia liscio e lucido, a regola d'arte. 2 minuti e riattacco, la incalza Rodion, indicando l'orologio sulla parete, simile a un grande occhio. Danny capisce che è ora di togliere il disturbo. Rimette i pezzi nella pancia della radio, chiude il coperchio della scatola e spegne lo stagnatore, senza smettere di contemplarlo, come se fosse un oggetto raro e prezioso. Kotick, non senza sollievo, ringrazia l'amico stringendogli la mano. Danny invece lo bacia sulle guance, come ha visto fare ai russi. Proprio quando ha la bocca vicino al suo orecchio mormora qualcosa che lascia Rodion interdetto. Il tempo non è mai perso, è sempre relativo. Dipende da te, non dall'orologio.